Letture di Radio 24. Le agenzie di investigazione in Italia sono 3.089. Troppe? No, a guardare il ventaglio di servizi offerti. Non più solo il classico pedinamento per scoprire il tradimento del marito, magari con tanto di foto inequivocabili. Oggi gli investigatori italiani lavorano per lo più per aziende che sospettano frodi, temono concorrenza sleale o ritengono che il proprio dipendente ammalato da mesi sia in realtà sano come un pesce. Dei tradimenti della moglie, di cosa facciano i mariti o i fidanzati quando se ne vanno in giro da soli, agli italiani interessa sempre di meno. Meglio indagare sull'assenteismo dei dipendenti, sulla fedeltà dei soci, sull'affidabilità dei clienti. Meglio spiare per questioni di business che per affari di cuore. La crisi economica ha toccato tutti i settori, ma non quello dell'investigazione privata che in questi anni ha visto aumentare fatturati e clientela. Per le agenzie la recessione è stata un affare, anche se per cavalcare l'onda gli 007 hanno dovuto letteralmente rivoluzionare il loro lavoro. C'è molto meno sesso e molto più spionaggio industriale oggi nelle loro indagini. Solo il 30% di chi si rivolge ad un'agenzia investigativa lo fa per questioni di famiglia. Nella stragrande maggioranza dei casi, la clientela è un'azienda, una banca, un imprenditore che sospetta frodi, concorrenza sleale, finti assenteismi o violazioni nella tutela di marchi e brevetti. Lo dimostra uno studio di Axerta, una delle principali agenzie italiane, su dati della Camera di Commercio di Milano. Negli ultimi 3 anni il numero delle agenzie in Italia è aumentato del 9% e il giro d'affari complessivo nel 2010 ha toccato quota 350 milioni di euro. Certo, i clienti in famiglia non sono scomparsi e rappresentano ancora il core business delle agenzie più piccole, ma anche su questo versante la domanda è molto cambiata. Più che per spiare i comportamenti della moglie o del marito, ora ci si rivolge all'agenzia per sapere cosa fa il figlio adolescente quando esce dalla scuola, dice Gennaro Pellegrino, presidente di Federpol, l'associazione di categoria con oltre 800 agenzie iscritte. Allo 007 si rivolgono anche anziani genitori che devono fare i conti con le vessazioni subite da figli adulti che non se ne vogliono andare. Ma la parte preponderante del business è legata alle aziende. Sia chiaro, il lavoro deve avvenire nel pieno rispetto della legalità e deve produrre prove da esibire in giudizio, dice Vincenzo Francese, amministratore delegato di Axerta. Ecco allora che al primo posto nella graduatoria delle mission ci sono gli accertamenti sui dipendenti e sui loro comportamenti che possono giustificarne il licenziamento. Il caso più curioso, per quanto ci riguarda, è stato quello di un informatore scientifico che si dava malato, ma in realtà gestiva una pizzeria. Seguono casi di concorrenza sleale, di affidabilità finanziaria, di tutela di marchi e brevetti e indagini sulle frodi. Per lo 007, dunque, c'è futuro. La stessa Axerta assicura che entro l'anno assumerà 15 agenti ordinari e 5 specialisti di credit manager e che gli stipendi lordi del settore viaggiano su una media di 3.500 euro. Accanto ai requisiti classici, carattere razionale, guidatore esperto di auto e moto, disponibilità 24 ore su 24 ed elevata capacità organizzativa, sarà meglio esibire anche competenza giuridica ed economica. D'altra parte, il testo unico di pubblica sicurezza, che entrerà in vigore a settimane, richiede che il titolare dell'agenzia investigativa sia regolarmente laureato. Il sigaro in bocca, l'aria avventurosa e una certa eleganza stropicciata, insomma, non bastano più. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Investigatori si cambia, a firma di Luisa Grion e pubblicato dalla Repubblica del 20 dicembre. Letture di Radio 24. C'è una commissione parlamentare che indaga sui casi di malasanità in Italia. Ne ha per le mani 242, tutti avvenuti dall'aprile del 2009 a oggi. Di questi, la metà sono avvenuti nelle sole Calabria e Sicilia. C'è forse qualcosa che non va nella sanità del Sud? La sanità, o meglio la mala sanità, era gestita direttamente dalle cosche malavitose. E in quelle condizioni era facile che ci scappasse il morto, anzi i morti. Come nei casi, ad esempio, di due ragazzine di 16 anni, Federica Monteleone ed Eva Ruscio. Quando 3 anni fa cominciarono a spulciare i precedenti penali di tutti i dipendenti dell'allora ASL 8 di Vibo Valentia, i finanzieri del nucleo speciale pubblica amministrazione fecero un balzo sulla sedia. Dagli operatori delle ditte che forniscono i servizi esterni come la pulizia e la ristorazione, all'ultimo tecnico ed infermiere, assunti con contratto a tempo determinato, fino al più alto dirigente in carica, era tutto un reticolo di parentele e collegamenti con le più pericolose cosche del Vibonese e del Reggino. I Lobianco, i Fiarei, Mancuso, i La Rosa sono anche i clan che negli ospedali e nelle strutture sanitarie del Vibonese si aggiudicavano gli appalti e quindi portavano i pasti, si occupavano delle ristrutturazioni, installavano infissi e impianti di climatizzazione. Per questi motivi, l'accertata infiltrazione mafiosa, il Consiglio dei Ministri ha sciolto l'azienda sanitaria provinciale, accogliendo le risultanze della commissione d'accesso inviata dal prefetto Luisa Latella, che ha passato al setaccio gli ultimi 5 anni di gestione aziendale, confermando punto su punto quanto già accertato dalla Guardia di Finanza nel 2007. Così a breve, a Vibo Valentia, arriveranno i commissari per tentare di recuperare una gestione disastrosa della sanità nel Vibonese, che ha portato al tracollo ospedali e strutture sanitarie e, soprattutto, è costata la vita a troppe persone. A svettare in cima alle cronache nazionali è lo Iazzolino nel centro di Vibo, meglio noto come l'ospedale killer, dove 2 ragazzine di 16 anni, Federica Monteleone ed Eva Ruscio, sono morte per un'appendicite e un ascesso alle tonsille e dove si sono registrati numerosi altri casi di mala sanità. Un ospedale in cui si rischiano infezioni, hanno scritto i magistrati nel provvedimento di sequestro di vari reparti dopo quelle morti, pieno di muffe e carenze strutturali, con un impianto elettrico non a norma e senza presa a terra. A uccidere Federica è stato infatti un blackout in una sala operatoria fuori legge, seguito da un'incredibile successione di errori medici. Una sala operatoria come quella che ha ucciso mia figlia non poteva essere frutto di investimenti nell'interesse dell'utente, dice oggi Maria Sorrentino, mamma di Federica Monteleone, che poi affonda così il coltello. La lunga mano dell''ndrangheta nella gestione delle sale operatorie è scritta nelle indagini. Se il flusso di denaro non fosse stato deviato in altre direzioni, molte vittime della sanità oggi sarebbero ancora vive. La mancata costruzione del nuovo ospedale a Vibo Valentia, su cui sono state intascate tangenti milionarie, e le risultanze dell'inchiesta parlano chiaro. Ma lo Iazzolino e l'intera azienda sanitaria detengono il primato per il numero di dipendenti, ben 1900, dei quali 386 medici e di questi 153 altamente specializzati. 680 sono gli infermieri e i tecnici, 140 gli ausiliari e 650 gli amministrativi e tecnici. Gente che ti tratta in modo superficiale e strafottente, denunciò il figlio di Orazio Maccarrone, morto dopo 4 ore di attesa al pronto soccorso perché tutti gli addetti erano occupati. Federica, suo malgrado, è diventata un simbolo della mala sanità e della mala giustizia in Calabria. Da quel momento, racconta ancora la signora Sorrentino, che ormai vive solo per avere giustizia, le nostre lotte sono state incessanti e qualcosa ha iniziato a smuoversi. Tanti hanno compreso che si era sfatato il luogo comune che i medici o certi personaggi non pagano, trovando così la forza di denunciare. Il ricordo di Federica non sfumerà, come sperato dai tanti che hanno cercato e continuano a sperare che tutto potesse essere insabbiato e sarebbe finito in una bolla di sapone. Oggi si è concluso con 9 condanne il processo di primo grado e, passando al setaccio i dipendenti dell'ASP di Vibo, i finanzieri hanno riempito pagine del loro rapporto con segnalazioni di denunce e condanne da far accapponare la pelle. Associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, porto abusivo d'armi, usura, furto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio volontario, riciclaggio, ricettazione, violenza privata, lesioni volontarie. Sono il qualificato curriculum di Paolino Lobianco, figlio del capo clan Carmelo, anche lui assunto nell'ospedale killer. E come lui, sono decine i pregiudicati assunti in corsia come infermieri, tecnici nei laboratori e impiegati amministrativi. Moltissimi quelli denunciati per detenzione di armi ed altri reati. Il sistema per fare lavorare le ditte delle 'ndrine lo trovavano i dirigenti dei vari settori. 7 di loro, dal direttore generale all'ultimo dei capi uffici, sono stati attenzionati dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha ricevuto anche gli atti di questa nuova decisione del Consiglio dei Ministri. D'altronde, 'Ndrangheta e politica hanno fatto per anni da efficientissimo ufficio di collocamento per i propri protetti. A Locri, dopo l'omicidio Fortunio, si insediò la commissione di inchiesta, che scovò 13 medici con precedenti o legami di parentela con la 'Ndrangheta, 29 infermieri, 18 tecnici e 23 addetti alle pulizie. Nessuna assunzione, senza il placet della 'Ndrangheta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La mala sanità che uccise Federica, gestita dai clan della 'Ndrangheta, a firma di Filippo Marra Cutrupi e pubblicato dal Giornale del 20 dicembre. Al confine tra Pakistan e Afghanistan, a 2000 metri d'altitudine, vive una tribù di origine antichissima. Sono i Kalasha e celebrano una festa del solstizio d'inverno che ha molte somiglianze con la festa della Natività di Cristo. Questo nonostante la tribù abbia sempre respinto influenze culturali esterne. Che esista davvero un Natale pagano? Per ritrovare l'origine del Natale, bisogna andare sugli altipiani dell'Hindu Kush, tra Afghanistan e Kashmir, dove vivono gli ultimi pagani. Sono i fieri Kalasha, gelosi custodi delle loro remotissime tradizioni indoeuropee. Questi uomini, che sapevano d'antico già nel 330 a.C., quando Alessandro Magno li incontrò durante la sua marcia verso Jalalabad, si rivelano le radici della nostra storia e della nostra religione. Il loro grandioso rito solstiziale d'inverno, 12 giorni che iniziano con la discesa del Dio tra gli uomini e si concludono con l'inizio del nuovo anno, è infatti l'archeologia vivente della Natività. A dirlo è l'antropologo Augusto Cacopardo, in un libro appena uscito per l'editore Sellerio. Il titolo, più che eloquente, è Natale pagano. Sellerio, 476 pagine, 20 euro. Argomento è la millenaria gestazione di una festa che non sarebbe stata inventata dal cristianesimo e che comincia molto prima. In realtà, sono stati in molti a sostenere che la madre di tutte le festività dell'Occidente nasce da antichi riti agrari e astronomici precristiani, come quelli dell'Atene di Pericle, culla della democrazia occidentale, dove nell'ultima decade di dicembre si addobbava un albero sempreverde con coppe e otri in onore di Dioniso, il dio del vino che offre in pasto il suo corpo e il suo sangue. Mentre a Roma, sempre in dicembre, durante i Saturnali, si ornavano le case con abeti e altri alberi perenni, simboli della vita che continua. Il tutto culminava nella festa di Mitra, il dio solare nato in una grotta e rappresentato come un bambino risplendente di luce. La sua nascita coincideva con il solstizio d'inverno, quando le giornate cominciano ad allungarsi e il sole ha il sopravvento sulle tenebre. Stessa cosa facevano i Celti dell'Europa del Nord, che nello stesso periodo offrivano alle divinità della luce composizioni di vischio e rami di abete. Il libro di Cacopardo aggiunge a queste ipotesi storiche una prova vivente. I Kalasha, che hanno resistito a ogni tentativo di cristianizzazione e di islamizzazione, continuano infatti a professare una religione sorprendentemente simile a quella dell'antichità. Questi montanari variopinti, che Fosco Maraini trovava più antichi che esotici, appaiono come l'eco presente di un tempo lontanissimo, il riverbero di un passato remoto, miracolosamente conservato in una bolla della storia. Sospesa a 2000 metri sulle alture rarefatte di Birir, a due passi dai teatri di guerra dell'Afghanistan. Questi portatori sani di un'origine altrove scomparsa ci fanno toccare con mano lo spirito della religione prima dell'arrivo dei monoteismi. E soprattutto ritrovare il politeismo degli antichi popoli indoeuropei, spesso ancora presente sotto traccia nel nostro folklore e perfino nelle nostre grandi solennità religiose. La grandiosa festa del solstizio d'inverno, che i Kalasha chiamano Chaumus, è a tutti gli effetti un Natale prima del Natale. È la matrice ideale della nostra notte incantata, con il dio luminoso Indra, parente stretto di Indro, nome locale dell'arcobaleno, nonché di Indra, signore della folgore nel pantheon induista, che discende a visitare gli uomini nel periodo più buio dell'anno e dispensa loro la sua energia come un dono benefico. Se si aggiungono i rami di vischio, le abbuffate rituali di lenticchie di montagna, la notte di vigilia in attesa dell'avvento del dio, i doni ai bambini e i fuochi che rischiarano la notte innevata, gli ingredienti del nostro Natale ci sono tutti, a parte Jingle Bells. Ma non è poi così grave. Non sarebbe Gesù bambino a fare il Natale dunque, ma il Natale a fare Gesù bambino. Sembra questo il messaggio degli ultimi pagani, che pare fatto apposta per dare ragione a Sant'Agostino, il quale diffidava i cristiani dal celebrare il sole a dicembre perché era roba da idolatri. O a quei sacerdoti francesi che alla fine degli anni 50 bruciarono il fantoccio di Babbo Natale sul sagrato della cattedrale di Digione, considerandolo un simbolo perverso di paganesimo e al tempo stesso di consumismo. Che sono, a pensarci bene, il prima e il dopo della modernità, due estremi della storia mescolati insieme, a conclusione di un cammino millenario di cui gli ultimi pagani continuano ancora oggi a celebrare l'inizio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Natale nel Kashmir a firma di Marino Niola e pubblicato dalla Repubblica del 20 dicembre.